Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero e anche oggi avrete la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri, cartacei o digitali, ammesso che riusciate a risolvere il mistero in 24 minuti. Alle 11.30 infatti giocheremo e per iniziare vi faccio ascoltare il primo indizio di questa settimana. È intanto da contento. Questa canzoncella, canzone di molti anni fa, a canzoncella, così si intitola, erano gli alunni del sole e il premio come sempre appunto sono 1000 euro, ammesso che riusciate a risolvere il mistero, che può essere o una delle notizie della settimana oppure un personaggio, qualcosa di molto conosciuto. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24. Si giocherà alle 11:30 appunto. Oggi il riposo del guerriero vuole farvi sorridere, anche perché finalmente pare che l'estate sia arrivata. Poi ci lamenteremo come al solito, no? Ma questo è un altro discorso, siamo italiani, per cui ogni cosa non va bene mai. Comunque sia, cercheremo di sorridere alla luce, al sole, e di essere felici. Come essere felici un po' lo scopriremo, un po' ce lo racconterete voi, ma soprattutto capiremo che ci sono meccanismi che possono renderci felici attraverso la felicità degli altri. Di questo parleremo nel riposo del guerriero e i vostri messaggi. Se volete indicarci anche i vostri momenti di felicità, vorremmo sapere quando li avete avuti, quanto sono durati e perché siete stati felici. Il numero per i messaggi 349 238 6666 oppure c'è la nostra pagina di Facebook Il riposo del guerriero. Con un pezzo di Jobim cantato da Gau Costa che è Felicidade, e nella canzone pare che la felicità sia paragonata a una piuma che vola, che si muove nel vento e che in fondo è una vita breve, la vedi per un attimo e ti rende felice vederla passare, poi però il vento se la porta via e tu dici quell'attimo di felicità se n'è andato. Valerio Millefoglie, ciao, buona domenica. Ciao. Allora, Valerio fra le tante cose che fa è anche autore, ma un libro è uscito. Da quanto è uscito il libro per Esaudi? È uscito a fine marzo. Ecco, non guardate il suo sito, sul sito c'è scritto che dovrà uscire, invece no, è già uscito. Perché vuole essere sempre ottimista, no? Quindi vuole rimandare l'uscita. Il titolo è L'attimo in cui siamo felici. E allora è vero che è una piuma, aveva ragione. Se ti fa un solletto così, se no è così ermetica, no? È come metafora. Quindi io invece nel libro ho cercato delle felicità più pratiche. Più concrete, più dici concrete. In qualche modo. Che a volte non sembrano neanche delle felicità. Eh no, infatti te ne accorgi dopo. Spesso le vivi anche in settimane che non sono così speciali o magari anche brutte, no? Però ci sono dei momenti, io ho costretto le persone, no? ad accorgersi di queste piccole felicità. Ecco, allora cerchiamo di capire come nasce il libro, perché il libro nasce da un'idea e forse da un, anzi senza forse, nasce da un'infelicità, nasce da una mancanza di sconforto, no? Esatto. Sì, perché poi le idee nascono sempre da qualcosa che ti manca, allora le ricrei tu. Io non riuscivo a essere felice, quindi ho deciso che era più facile provare a vivere quelle degli altri e mi sono inventato una terapia, proprio la terapia della felicità. Ho iniziato a distribuire un volantino in cui ricercavo delle cavie. Che si pronte a sperimentare cavie umane sai. Pronte a sperimentare la felicità e nel volantino dicevo ricerco la felicità, non la mia, la tua, ricerco la tua felicità, pensi di non averla eppure ce l'hai, non mi riferisco solo alle grandi felicità come l'incontro con l'anima gemella o la scalata, la vetta più alta che c'è, mi interessano le felicità quotidiane, un caffè con un amico, una telefonata inaspettata, tornare a casa la sera, aprire il frigo e invece di un pomodoro trovarne due. Quindi ho fatto questo volantino e ho iniziato a distribuirlo. Sì, sai come un attimo di felicità mi viene in mente una cosa, è quando tu prendi dei pantaloni che tanto che non mettevi, che sono rimasti nell'armadio da chissà quanti mesi, anni magari, e trovi dei soldi. E non ti ricordavi di averli messi lì, ovviamente, no? E non so, trovi 10 euro, dici, ah, guarda, e questo è un momento di felicità, però dura, credo, che cosa? Tempo di spenderli. Sì, no, neanche 3 secondi, il tempo di dire, ah, guarda, è già finito, perché poi vai, scendi le scale, e io lì ho le cassette delle lettere, ci sono le bollette, e quindi la felicità se n'è già andata. Allora, io credo che sia un bellissimo esercizio psicologico, se vuoi, o comunque caratteriale, riuscire a vivere la felicità degli altri, perché vuol dire che non c'è invidia, perché se no sarebbe esattamente certo. L'opposto. Ne parliamo dopo gli aggiornamenti sul traffico, intanto vogliamo sapere quali sono i vostri piccoli, grandi momenti di felicità, perché li avete avuti e quanto sono durati. Il riposo del guerriero. Con Valerio Millefoglie stiamo parlando di felicità, autore del libro L'attimo in cui siamo felici. Allora, tutto nasce da una tua infelicità e hai cominciato a provare il contrario dell'invidia, cioè essere felici per mezzo della felicità degli altri. Funziona? Ma funziona perché comunque essendo felicità piccole, no? Io non andavo a chiedere il sogno più felice, no? La realizzazione. Tu secondo me sei invidioso di quando qualcuno riesce a realizzare esattamente quello che volevi. Non è detto, no? Si può essere anche invidiosi del per caffè. Il fatto sì, per il fatto che qualcuno riesca a provare piacere su piccole cose e invece tu no, ecco. Ma non lo so, invece tutto, e invece in io poi lo ero, perché ero mi incuriosivano e mi rallegravano. No? Quindi per esempio un ragazzo ha scritto 10 minuti di felicità per un piatto di pasta e broccoli, non perché è il suo piatto preferito, ma perché in quel momento, questo piatto gliel'aveva preparato la sua compagna, allora mentre lui mangiava pasta e broccoli diceva male che mi vada, nella vita avrò sempre un piatto di pasta e broccoli. Ecco, tra l'altro, per rispondere a Rita che ha scritto su Facebook, lei dice: mi dispiace caro guerriero, ma oggi essere felice è impossibile. E invece è possibile, cioè non stiamo parlando della la felicità magna, non so, ma stiamo parlando della piccola felicità che esiste. Per esempio, uno dei messaggi è: ricordo il mio momento della laurea, ecco, in quello, però è già un passo importante. Sì. Vogliamo passi meno importanti, esatto, nella nostra vita. Se sono arrivati un messaggio comincia con uno e quindi non riusciamo a capire qual è stato il momento. Forse numero uno. Il numero uno, che vuol dire tutto e niente, ovviamente. Allora, come hai scelto poi tra le tante schede che ti sono arrivate quelle più interessanti? Ma inizialmente ho fatto proprio scegliere al caso, non ho distribuito queste schede ad amici o conoscenti, ma volevo trovare proprio le felicità di persone anche lontanissime da me, sia nelle esperienze, anche nell'età. Ho fatto fare la terapia a un mago illusionista, oppure sono stato in carcere per cercare proprio la felicità anche in un posto in cui di solito, no, si pensa che non ci sia, no? Perché dove non c'è la libertà, figurati se c'è. Certo, ma ci saranno attimi di felicità. Appunto, quindi ho trovato questo luogo estremo, eppure anche lì sono riuscito a trovarla. E poi io a tutti i soggetti davo un questionario da compilare, sì. Quindi loro nell'arco di una settimana dovevano appunto segnare i loro attimi felici, e dopo c'era l'incontro in cui li intervistavo. Ecco, tu pensi che possa essere terapeutico questo, cioè obbligarsi a scrivere un diario o qualunque cosa dove indicare il proprio momento quotidiano, se c'è, di felicità, o i propri momenti, ovviamente. Allora, molti dei soggetti mi hanno detto che è stato bello proprio perché anche loro non se ne accorgevano. Ti sei fatto pagare per questo? No, perché... ce n'è uno. Fatto pagare in felicità. Vabbè. Oppure, per esempio, invece, il mago illusionista, il suo ultimo attimo felice della settimana è stato: finalmente ho finito la scheda della felicità, perché diceva che a un certo punto lui si sentiva quasi in dovere di essere felice, no, per non consegnarmi la felicità in bianco. Ma il bianco. Meccanismo potrebbe proprio essere quello, cioè sentirsi in dovere di essere felici e quindi automaticamente autoconvincersi di esserlo, forse fa bene, no? E poi lui mi ha detto questa cosa sull'attesa della felicità. Sì. Lui ha detto di avere due cassette di un celebre mago illusionista, e di queste due cassette ne ha sentite solo una, e ce l'ha da anni, perché dice: se sento anche la seconda poi non potrò più essere felice. Allora rimanda continuamente l'attesa dell'ascolto. Quindi certo. Forse la felicità è anche non raggiungerla. Sì, sì, è come quando io registro Desperate Housewives e poi me le centellino. Certo, l'ultima puntata soprattutto, perché è quella che poi rappresenta la fine. Maurizio scrive: quando vedo i miei due figli ridere contemporaneamente, è un momento di felicità. Deve sincronizzarli, come fa? Non lo so, però è possibile se uno fa una battuta. Adesso ridete. Uno, due, tre. Allora, nel tuo libro parli di famiglia, per esempio. E per te la famiglia felice qual è? Ma allora, parlo di famiglia perché poi alla base di questo libro c'è il fatto che ho perso mio padre. Io avevo cominciato a catalogare questi attimi felici. Ragione? Sì, prima della sua scomparsa avevo cominciato a catalogare questi attimi felici, poi li ho tenuti là. E quando è morto ho ripreso in mano tutte queste schede, le ho proprio usate anche in modo egoistico, no? Cioè le usi per cercare di tirarti fuori. L'hai fatto per quello? L'ho fatto per quello, cioè. Ma pensavi che ne sarebbe poi... così uscito un libro, oppure no? In quel momento era soltanto un... Allora, l'idea del libro, della catalogare le felicità, c'era già prima. Non pensavo che questa cosa sarebbe diventata, avrebbe preso quest'altro, come dire, cioè è strano che un libro di felicità poi parli anche di morte, no? Però mi piace questa cosa, perché c'è sempre l'idea, no, che la felicità deve essere allegra, o non ci deve essere della sofferenza dietro la felicità, mentre invece tu ti prepari, no? Cioè tu sei depresso e ti prepari a essere felice dopo. È la grande banalità che sto per dire, però è proprio quella che se tu non hai avuto momenti di grande tristezza non riesci a cogliere quelli di felicità, perché non ne vedi la differenza, per certo. Cui sarà banale, però funziona esattamente così. Andrea Forlani, buona domenica. Buona domenica a te. E a tutti gli ascoltatori. Allora, un modo per essere felici è cercare di vedere le cose da un altro punto di vista. Per cui ci sono luoghi che pensiamo di conoscere perfettamente e che invece non conosciamo affatto, e la felicità potrebbe essere scoprirli. E tu hai scritto 101 viaggi straordinari da fare almeno una volta nella vita insieme a Giuseppe Ceccato. Esattamente. Allora, straordinari perché sono fuori dall'ordinario, ovviamente. Voi dite che già fare un viaggio è un po' fuori dall'ordinario, perché chi è che può viaggiare? Ormai abbiamo visto anche causa crisi quanti non andranno in vacanza, e quindi viaggiare un po' è un lusso, è diventato, almeno in questo periodo lo è sicuramente. Però, visto che è un lusso, se dobbiamo concedercelo, cerchiamo di fare qualcosa di diverso dal solito. Sì, in realtà appunto questo libro è nato un po' dall'esigenza mia di Beppe di scrivere di luoghi che difficilmente trovano anche spazio in riviste per le quali collaboriamo. perché magari sono poco commerciali, perché magari sono dei luoghi strani, difficili da raggiungere, ma non necessariamente poi in capo al mondo. Quindi lo straordinario infatti può anche essere dietro casa. Io ho citato nel libro un piccolo itinerario dietro Milano, sì, da fare in bicicletta lungo la riva della Martesana, che è questo naviglio che forse tutti i milanesi conoscono. È il naviglio del, diciamo che è il naviglio del nord della città, per intenderci. Si basta avere una bicicletta in realtà per arrivare in capo al mondo partendo da Milano, in luoghi che magari nessuno si immagina perché sono in mezzo alla campagna, con delle ville di qualche secolo fa, magari ancora da rimettere un pochino a posto, però sono degli edifici splendidi che però da raggiungere in bicicletta magari nessuno ci ha mai pensato, quindi non è che necessariamente si debba andare per forza in capo al mondo per godersi dei paesaggi o delle esperienze diverse dall'ordinario. Ecco, tra l'altro c'è una sezione piuttosto corposa dedicata all'Italia e poi si va anche all'estero, si gira per il mondo. Andrea, volevo chiederti una cosa però, siccome tu collabori per riviste appunto di viaggi anche, e viaggi nella tua vita direi molto, perché secondo te, cioè mi ha incuriosito il fatto, la tua chiacchierata inizialmente diceva, sai, quando tu parli di qualcosa di alternativo non piace mai, bisogna parlare, tra virgolette, intendimi nel doppio senso della frase, di luoghi comuni, no? Nel senso, sì, di posti che in qualche modo la gente già immagina. No, insomma, tra turismo e viaggio. Il turismo è ormai un'industria e coinvolge anche, purtroppo, per fortuna, anche la parte editoriale, comunque le riviste, i libri, le guide, eccetera, eccetera. E quindi, sai, parlare di Seychelles, piuttosto che Maldive, piuttosto che Parigi, piuttosto che Londra, è più facile perché lì ci si può costruire intorno. Secondo me perché c'è già un immaginario. Io trovo che anche perché c'è già un immaginario, no? E allora in qualche modo sembra sia l'impressione che possa interessare di più. Invece io sono più interessato a leggere qualcosa di disconosciuto, perché così imparo. Senti, siccome prima Valerio Millefoglia qui con me diceva è curioso come la felicità possa arrivare anche da un momento di tristezza anche estremo, perché si parlava di morte addirittura. In effetti anche tu nei tuoi viaggi hai scovato un cimitero magico. Il cimitero magico l'ha scovato in realtà Beppe, sì, anche la verità, perché in realtà non essendo firmati questi le singole destinazioni si fa un po' di difficoltà a capire chi ha scritto che cosa, perché non è importante, basta che qualcuno l'abbia scoperto, diciamo così, e poi divulgato. No, ma in realtà quello che dice è verissimo, anzi ci sono anche luoghi che sono stati a lungo tristi e che sono diventati dei luoghi assolutamente divertenti e pieni di felicità. Ti faccio un esempio che è anche molto calzante rispetto all'attualità, ovvero Cracovia, dove alloggia, se non sbaglio, la nostra nazionale di calcio, sul finire di questo mese, il 29 se non sbaglio, in un quartiere che è stato malfamatissimo fino a poco tempo fa, veramente fino a pochi anni fa nessuno ci andava perché era preda di squatters malintenzionati, per cui è decadente in tutto e per tutto. Adesso è diventato il quartiere più alternativo e trendy, se vuoi, della città. Si chiama Kazimierz e il 29 di questo mese partirà il Festival di Cultura Ebraica, perché questo è un ex quartiere popolato da ebrei per secoli, fino all'arrivo della Seconda Guerra Mondiale e poi del socialismo, e ci sarà tutta una serie di manifestazioni legate alla cultura ebraica, ma non solo, musica, workshop, eventi, di tutto di più, per cui questo che è stato fino a non molto tempo fa un postaccio, adesso invece è diventato esattamente il contrario, un luogo assolutamente di felicità, divertimento e di cose interessanti da scoprire. Ecco Andrea, 101 sono appunto gli itinerari, non sono in ordine di importanza e neanche in ordine geografico, perché l'Italia parte addirittura dal sud, poi va al centro, poi ritorna al sud, poi va al nord, insomma non ha un ordine. Sì, no, esatto. Tu fra i 101, qual è quello che hai nel cuore, quello che faresti, Dunque, adesso? Tutti sanno che, i miei amici sanno che il mio posto preferito al mondo è il deserto del Nevada, che sul finire del mese di agosto, ovvero l'ultimo weekend di agosto, da un luogo dove non c'è assolutamente nulla per tutto il resto dell'anno. A parte i cadaveri sotterrati, no? Ecco, certo. Scusami. Prego? No, dicevo, a parte i cadaveri sotterrati, perché se guardi... Esatto. Si sai Las Vegas di solito. Poco perché sono in Svezia in questo momento, ho degli strani ritorni, per cui se ti sovrappongo la voce non è vai, vai avanti. E, questo deserto sul finire del, appunto, del mese di agosto, il primo weekend, l'ultimo weekend, chiedo scusa, si popola di circa 50.000 persone che vanno lì per celebrare, diciamo così, l'arte contemporanea, ovvero ci sono circa 250-300 installazioni di tutti i tipi, delle più pachidermiche, che abitano per decine di chilometri quadrati in questo deserto, dove ci sono accampati 45-50.000 persone che si muovono per lo più in costume e su dei cosiddetti veicoli mutanti, che sono da degli skateboard a dei tir completamente riconvertiti in qualcos'altro, e celebrano per una settimana in atmosfera tra metà tra Woodstock, Alice nel Paese delle Meraviglie, Mad Max, se hai presente il film, e la Biennale di Venezia, una settimana davvero fuori dall'ordinario. Ecco, quelle che... succede di tutto e si vede di tutto, ma in un senso molto, come dire, positivo e improntato all'amicizia, molto peace and love, ed è veramente un posto incredibile. Si chiama Burning Man Festival questo festival. Anche sì, certo, perché poi bruciano un manchino, se non mi sbaglio, perché a un certo punto. Sì. È l'ultimo giorno di questa kermesse, che ormai sono 20 anni che viene replicata, bruciano questo enorme uomo fatto di metallo e legno, dopo uno spettacolo pirotecnico da favola, che illumina a giorno tutto il cielo del Nevada, no? Un posto veramente incredibile. Se avete possibilità di andarci, fatelo. Comunque questo è uno dei 101 viaggi straordinari, ce ne sono appunto 101, questo è uno di quelli. Certo. Grazie Andrea Forlani, buona domenica, che insieme a Giuseppe Cecato ha scritto 101 viaggi straordinari da fare almeno una volta nella vita. Allora Valerio, adesso do la pubblicità, ma dopo dovremo ragionare sui messaggi che sono arrivati. Qualcuno è filosofico, bisogna ragionare sul senso, però mi aiuterai a farlo. Il riposo del guerriero. Su Radio 24 stiamo parlando di felicità, ma i piccoli momenti di felicità. Valerio, allora, rispieghiamo una... No, nel senso che noi cerchiamo delle piccole storie. Tu cercavi delle piccole storie. Degli aneddoti anche, no? Perché quando si parla di felicità si è sempre spinti a trattarlo in modo ermetico, inarrivabile. Invece io volevo appunto dei racconti reali, no? Come per esempio c'è Marco Elettrico, questo ragazzo del libro che a un certo punto è felice perché continua a passeggiare fuori dall'agenzia immobiliare che c'è sotto casa sua perché si è innamorato di questa segretaria che gli ha anche affittato casa, quindi cerca sempre dei motivi per rientrare nell'agenzia immobiliare, quindi volevo delle cose di questo tipo. Quindi la sua felicità era guardarla? È a guardarla. Dalla vetrina. Domenica scorsa, scrive Monica, mi sono addormentata sotto un albero e quando ho riaperto gli occhi mi sono trovata davanti due bimbetti bellissimi che mi osservavano in silenzio. Momento di pura felicità. Che porterà nel cuore. Non c'è scritto quanto è durato, ma sarà il battito. Almeno un paio d'ore. Dici tutto il tempo. Tutto il tempo che va a fissare. Felice pedalare dopo 15 anni e sentire il vento e il suo profumo, scrive Flavio. 15 anni non ha usato la bicicletta. Invece Paola, su Facebook sono più cupi, non so come mai. Sarà Facebook che fa diventare cupi. La felicità è così effimera, l'ho accantonata, cerco più la serenità quotidiana. Non facile, ma posso assicurare che dura di più. Buona domenica. Però non ci spiega quale serenità. No, non infatti ci dà noi, nessun esempio. Esatto, di noi siamo curiosi di capire. Arrivano dei messaggi filosofici: tipo: la felicità è quell'attimo in cui ti senti parte di una realtà ampia dove tu sei vivo e senza volontà, cioè. In cui tu non devi fare nulla per non mi hai felice. Aiutato, io ho detto Valerio aiutami ma non mi hai aiutato. Allora volevo farvi capire che si può anche essere felici per delle cose apparentemente banali, però in quel momento in qualche modo ti fanno sorridere, magari anche in modo cinico, perché il cinismo fa un po' parte della felicità, no? E allora ci sono questi momenti raccontati da un libro di Francesco Piccolo, che anche non solo autore ma anche sceneggiatore, si intitola Momenti di trascurabile felicità. È un libro che ha avuto moltissimo successo e visto che abbiamo parlato di viaggi prima, voglio farvi sentire questo brano tratto da Momenti di trascurabile felicità. Prenoto il posto in treno. in tempo. Quando arrivo alla stazione non salgo subito, aspetto. Guardo tutte le riviste esposte all'edicola. Compro una bottiglia d'acqua al distributore automatico. Poi, poco prima che il treno parta, 2 o 3 minuti prima, salgo sulla mia carrozza e mi avvicino al mio posto speranzoso. Spesso lo capisco anche da lontano. Se è libero, metto il bagaglio in alto e prendo posto. Deluso. Perché mi piace tanto trovare qualcuno che si è seduto al mio posto, sperando che io non arrivi. Lo so che ha guardato l'orologio un sacco di volte. Lo so che ogni volta che si avvicinava qualcuno, temeva che fosse colui che reclamava il suo posto. Lo so che ogni volta ha tirato un sospiro pieno di speranza. E lo so che ora, un paio di minuti prima della partenza, crede di avercela fatta. In quel momento arrivo io, con il mio diritto inalienabile di farlo alzare. Io che fino a qualche anno fa temevo di trovare qualcuno seduto al mio posto perché mi vergognavo di farlo alzare, mi dispiaceva. Adesso sono diventato stronzo e mi piace. Scusi, ma questo posto sarebbe occupato? E mostro il biglietto. Dico sarebbe per fornirgli la possibilità di sperare ancora un pochino che io dica «ma non fa niente». E invece non mi muovo. E lui, umiliato, se ne va, scappa quasi, in cerca di un altro posto. Ecco, mi piace il fatto che lui non si vergogna a raccontare questa cosa, no? Di arrivare proprio all'ultimo minuto per far alzare una... sperando di trovare qualcuno seduto al proprio posto. Quanti si... anche io sono un po' così, cioè mi è venuta, cioè questo momento un po' di cinismo, Non so perché scatta questo meccanismo, però scatta. Te non so se succede, magari no, sei più buono. No, a me è successa questa cosa anche... cinica nel sentimento, nel senso che poi uno, ero al funerale, lo racconto nel libro, no? E uno ha un momento felice al funerale difficile che lo viva. Però ho vissuto questo momento di sorriso, diciamo. È una, al momento delle condoglianze, no, c'è sempre imbarazzo, cioè la gente si imbarazza. Ma anche perché, no? Perché non sai cosa dire, in fondo non c'è bisogno di dire niente, basta infatti, uno sguardo, un abbraccio in quel momento lì. E allora questa signora si è imbarazzata, invece di darmi le condoglianze mi ha detto auguri. No? Sì. Che è stato bello, no? Perché le condoglianze sono per chi non c'è più, invece l'augurio è per te che rimani e devi riprendere a vivere. E quindi quello lì è stato un attimo inaspettato nel funerale. Sì, che ti fa sorridere al momento perché l'etichetta vorrebbe un'altra cosa, però in realtà è molto più profondo l'augurio, è molto più interessante. E Antonio Maggio, buona domenica. Ma buona domenica a voi, vi stavo ascoltando con grande piacere, mi è piaciuta tantissimo la stronzaggine del signore prima in treno. Ce ne vuole sempre un pochino, ma ne avremo delle altre nel corso della puntata di oggi. Allora, Antonio, lo conoscerete perché è vincitore insieme ad Antonio Ancora, Michele Cortese, Raffaele Simone di X Factor, la prima edizione, giusto? Sì. Esatto, Con gli Aran Quartet avete fatto dei dischi, è andata bene, quindi diciamo quello è stato uno dei tuoi momenti di massima felicità, credo. Beh, sicuramente, insomma, è stato un picco sicuramente di questa ancora breve carriera, ecco, se così si può chiamare. Ecco, ci vuoi raccontare un momento particolare? Cioè, chiaramente essere decretati vincitori, quello è un momento di massima felicità, è ovvio. E invece volevamo sapere se ci fosse stato un momento di piccola felicità, magari una piccola banalità che ti è capitata o vi è capitata durante le vostre esibizioni o comunque in quel periodo. Ma guarda, ovviamente è scontato dire che il picco massimo si è raggiunto con la vittoria di X Factor, però ti posso assicurare che invece le soddisfazioni più grandi, e quindi sono anche quelli dei vari picchi che si ripetevano quasi in continuazione durante il tour, sono proprio era proprio l'affetto che ricevevamo in ogni posto in cui andavamo a suonare, che per noi ovviamente, soprattutto nella prima tournée nel 2008, era qualcosa di totalmente mai provato, inaspettato, quindi ricevere questo affetto così enorme, vedere migliaia di persone che venivano ad ascoltarti, a sentirti col desiderio di conoscerti, per noi era qualcosa di fantastico, di bellissimo, quindi nella gratificazione artistica e personale forse quello è stato un picco ancora più elevato della vittoria in sé per sé. Senti, c'è stato un momento di felicità da quando vi siete sciolti? Sì, questo devo essere molto sincero nel dirti che questo primo singolo con cui sono uscito ormai da 2 o 3 mesi ovviamente rappresenta per me anche una svolta dal punto di vista artistico, perché finalmente ho questa massima libertà creativa nel comporre, nello scrivere le mie canzoni. E quindi ascoltare in radio, come sta succedendo in questi 2 o 3 mesi, non solo la mia voce ma anche un pezzo di mio pugno, per me è una soddisfazione enorme, ecco. Spero che possa essere il primo, insomma, di una lunga serie di miei brani che posso ascoltare in radio, ecco. Ecco, ascoltiamo un pezzetto del tuo brano, perché poi abbiamo un po' di altre domande da farti. Perfetto. Se parli male, menti. Se parli bene, menti. Lo fai da tempo, ormai ci ho fatto l'abitudine. Non fare più come, menti. Non voglio chiari, menti. Potresti solo peggiorare il quadro clinico. Non c'è modo che io possa accettare questo modo di amare, prevalentemente ascetico. Siamo come carne che è andata male a forza di sorvolare sulle nostre falsità. Ma nonostante tutto, io non voglio perderti, voglio solo illudermi che va tutto bene. Ma nonostante tutto, proverò a difenderci dalle nostre deboli. Titola Nonostante tutto, Antonio Maggio, allora questo è il singolo e volevo capire, nel momento in cui gli Aran Court si sono sciolti, non sarà stata una scelta facile, soprattutto dopo quello che ci hai raccontato, quindi sì. I fan e la voglia di ascoltarvi, cosa hai fatto? Quando avete deciso? Quel famoso anno sabbatico di riflessioni, insomma, che... è servito tantissimo per rimettere un po' a posto tutte le idee, per riorganizzare il lavoro successivo, cioè questo da solista. Quindi ovviamente nel momento in cui ci siamo sciolti abbiamo messo in conto che nella nuova avventura da solista ci potessero essere dei pro e dei contro, come possono operare tra i pro ad esempio la libertà creativa che ti ho elencato, sì. Prima. Ovviamente ci sono anche dei piccoli contro, se ad esempio si andava in giro in viaggio a far casino in quattro, adesso ovviamente non c'è tutta quella cazzosità, io la definisco così, che poteva esserci in questo. Non c'è quando manca il gruppo, un po' così, no, ovviamente, certo, perché certo, cioè, non ci si spalleggia più, è più difficile da questo punto di vista. Antonio, visto che tu insomma hai vinto la prima edizione di X Factor e quindi un po' questo rimarrà nella storia, come chi vinse la prima edizione del Grande Fratello, cioè in qualche modo è la prima, no? Poi tutto, sì. Il resto passa un po'. Cosa succede nel mondo del mercato invece discografico? Cioè è complicato anche dopo aver vinto una trasmissione così seguita? È difficile poi rimanere a galla, tra virgolette? Oppure è un po' più semplice? Cosa succede? Sarebbe da stupidi negare, insomma, che la visibilità e la popolarità che dà oggi un talento non sia d'aiuto a un giovane, ecco. Però secondo me è sbagliato la concezione soprattutto del pubblico che poi sempre, insomma, dovrebbe quantomeno essere il sovrano, perché il pubblico vede un giovane che va a fare un talento a maggior ragione se lo vince, come nel nostro caso, come un artista arrivato. Invece non è così, perché un talento non lo vanno a fare dei big della canzone, lo vanno a fare dei giovani, e quindi rappresenta nell'arco della crescita creativa del giovane, rappresenta una delle tante tappe, sì. Sicuramente forse la più importante, però è sempre una tappa, secondo me deve essere concepito come una sorta di punto della gavetta del giovane, anche perché poi la vera giungla discografica inizia dopo, insomma. Ecco, hai scelto così, hai detto giungla, e quindi abbiamo capito già tutto, insomma, basta una parola per capire. Quindi insomma, non è facile, noi possiamo solo farti un sacco di auguri e sperare che tu sia costantemente felice, anche di piccole felicità. Grazie, ma appunto la felicità poi è sempre un fattore molto relativo, quindi io credo che un giovane artista come sono io debba essere felice innanzitutto di far ascoltare le sue canzoni, che poi le possa suonare sul gradino sotto casa piuttosto che al teatro Ariston della situazione o del relativo. L'importante è che ci siano delle persone che apprezzano la tua musica e che ti possano gratificare artisticamente. Questo sicuramente. Poi insomma il titolo della tua canzone dice nonostante tutto, quindi bisogna comunque andare avanti. È un inno alla positività assoluto, nonostante tutto. È un bel bagno di positività di cui tutti abbiamo un po' bisogno in questo periodo quantomeno difficile che stiamo vivendo tutti quanti, ecco. Grazie Antonio Maggio, ciao, complimenti. Grazie, ciao. Grazie. Prima della viabilità volevo leggere due messaggi, Valerio, se me lo permetti. Francesca scrive: i miei studenti di italiano che trasformano le frasi in tutte le loro parti al plurale correttamente. Perché oggi è difficile anche quello, però vuol dire che è brava lei. Perché è più facile sentirsi al singolare. Felicità è mezz'ora sul divano a leggere e mangiare pistacchi. Ecco. Parleremo anche di questo, del mangiare, di mettersi lì e mangiare, perché c'è un'autrice molto simpatica che sarà ospite nel nostro programma. Poi Flavio che scrive: 15 anni fa un incidente mi ha reso invalido, sarà una bici elettrica ma vale il mondo. Il riposo del guerriero. Valerio, ci sono anche delle ricette per la felicità. Sì, nel libro ho inserito alcuni ricettari della felicità, perché per esempio c'era questo soggetto, il signore dal piumino verde, che era sempre felice con la religione, cioè ascoltando il rosario alla radio, sì, andando con il gruppo di parrocchia, eccetera eccetera. Allora gli ho scritto questa ricetta che comincia così: spostare la radio di una frequenza dalla solita frequenza, naturalmente non ora, non adesso. Fare due passi in più del solito, dal solito bar, andare a quello dopo. Unire le mani e fare un cenno col capo per ringraziare qualcuno, in terra e non in cielo. Questa non è la guarigione, forse solo un sollievo, perlomeno. No, quindi se tu sposti minimo le tue abitudini, sì, togliere, no? l'abitudinarietà, sì, alla vita. In effetti è vero, scoprire una strada nuova, prendere il tram sbagliato, ecco quello. Io non so fare queste cose qui, no, perché vivo di praticità, e per cui la praticità ti impone in qualche modo di non fare così, semplicemente perché così arrivi prima. Però invece ogni tanto bisogna imporsi di sbagliare apposta. Tu lo fai? Con il libro ho cercato proprio di cambiare le mie abitudini, perché uno, se vive in una città, no? Per quanto grande, poi vivi sempre una piccola parte di questa città che è data appunto dall'autobus che ti porta al lavoro, dagli amici che frequenti di solito. Invece lavorando a questo libro ho cercato proprio di spostare le mie abitudini, di incontrare gente che di solito non incontro. Sono stato anche alla fiera dell'imprenditoria funeraria, no? per vedere anche lì, no, com'è. Invece ho scoperto che era felice assolutamente, come i Rimini. C'era Sixty Feet Under, che poi tra l'altro ci ha insegnato anche a sorridere di questo. Scrive Daniela su Facebook: un momento di felicità per me quando riesco a montare su un treno e vado via. La felicità me la dà il viaggio, partire, muoversi. Beh, io per esempio ho perso un treno a Roma un mesetto fa e sono stato contento, no? Perché sono rimasto 2 ore in più lì. E quindi mi ha rallegrato la perdita. Anche Gianluca dice: per me la felicità è essere a Marsala, sedersi al tavolino all'aperto di un bar, ordinare un espresso ben fatto e godersi il caldo che scalda la faccia, gli schiamazzi e il suono del dialetto siciliano. Ecco, questo è esattamente il quadretto che tu vorresti, sì, sentire, avresti voluto ascoltare. Francesca Dragotto, buongiorno. Buongiorno e buona domenica. Allora, il momento di felicità di Francesca Dragotto, la nostra glottologa, è quando le diamo l'argomento della puntata e mettersi a studiare, perché non c'è cosa che la rende più felice se non lo studio, vero? È così, Francesca? Beh, più che lo studio, il rispondere a delle curiosità. Ecco. Io intendo lo studio un po' in questo modo. Sai, è la possibilità, dimmi. I miei amici che mi conoscono bene me lo fanno apposta, sanno che io non riesco a non dare una risposta, cioè faccio, se mi fai una domanda io devo darti una risposta prima o poi, e lo fanno apposta a mettermi così. Io sono lì che scartabello, guardo, perché mi prendono in giro su questo. Vabbè, Francesca, allora, parlando di piccoli momenti di felicità. Allora, devo dire una cosa, che quando giovedì Giorgio De Luca della redazione, che saluto, approfitto dell'occasione, sì, e che ringrazio per la gentilezza che lo contraddistingue, mi ha comunicato che questa domenica avreste parlato di felicità, stranamente la prima cosa a cui ho pensato, la prima suggestione che ho ricevuto non è stata di tipo etimologico, perché le storie di parole e le storie di radici di parole sono arrivate subito dopo, ma dopo. La prima cosa che mi è venuta in mente, che ha preso proprio forma, ed è la stessa cosa che sta avvenendo nel corso della puntata di oggi, è stata una lista di aggettivi, apposizioni, elementi descrittivi che nel corso della vita e in qualunque tipo di situazione ho sentito associare a la felicità è, e in qualunque tipo di ambito, da quello filosofico a quello pubblicitario. Quindi direi che il termine che in assoluto associerei di più a felicità è ricetta, perché chiunque di noi cerca la ricetta della felicità, e subito dopo ricetta una lista di parole ed espressioni strettamente collegate dal punto di vista del significato, oppure dal punto di vista di ciò a cui rinviano, tutte quante accomunate dal fatto di costituire delle sinestesie, per cui noi siamo abituati a immaginare la felicità con un colore, con un sapore, una felicità da toccare, da odorare, da vedere crescere, che ha le fattezze di un bambino, che somiglia ad un qualcosa che va inseguito, ad un miscuglio di ormoni e neurotrasmettitori se la guardiamo dal punto di vista del cervello, quindi è un qualcosa di tutt'altro che astratto, a dispetto invece di quello che ci dice la lingua. Quindi ritorno a, come si dice, ritorno alla base, perché dal punto di vista della storia della parola invece si tratta di un termine estremamente concreto, almeno in principio, perché almeno in principio per quanto riguarda le storie di felicità nella lingua fu il latte oppure il letame. Vado per ordine. Mi è già capitato altre volte di dire che il latino era una lingua estremamente concreta, una lingua che un grande studioso del Novecento ha definito una lingua di contadini. Quindi con lingua di contadini intendo proprio letteralmente la provenienza rurale di molti dei termini del lessico fondamentale latino, termini che poi proprio per la loro basilarità ci danno anche molte indicazioni su quello che poteva essere il modo di vedere la vita dei parlanti di quella lingua. E allora la ricerca etimologica ci dice che allo stesso modo in cui pecuniam, prima di indicare il denaro, indicava le pecore, rivalis, prima di indicare il contendente, indicava materialmente chi attingeva acqua dallo stesso ruscello ma dall'altra riva, togliendoci quindi dell'acqua, allo stesso modo era felice, secondo una delle ipotesi più accreditate, colui che dà il latte e colui che riceve il latte. Perché? Perché stando appunto alla ricostruzione sembrerebbe che felicitas, il termine astratto dal latino felix, sia da ricollegare a felo o fello, il verbo che sta per succhiare, o ha un sostantivo che non troviamo attestato ma che immaginiamo sulla base degli esiti nelle lingue romanze, che è fela, che significa mammella. Fermati la seconda parte, perché poi c'è anche l'altra parola dopo il GR delle 11. Continuiamo a parlare di felicità. Il riposo del guerriero. Le 11:06, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero qua su Radio 24. Stiamo parlando di attimi di felicità con Valerio Millefoglie, autore di un libro che è L'attimo in cui siamo felici, edito da Einaudi, che è qui con me. E adesso c'è Francesca Dragotto, la nostra glottologa, che deve finire il suo discorso. Francesca, allora, stavamo parlando della parola felicità, siamo arrivati al latte, giusto? Quindi felice è chi dà latte ma prende anche il latte. Certamente, a onor del vero devo dire che si tratta di un'interpretazione che molti etimologisti convergono nel ritenerla assai probabile, ma che non abbiamo attestazioni nel latino delle origini che vanno esattamente in questa direzione. Quello che posso dire è che sicuramente, al di là di quello che può essere la ricostruzione del significato originario, una volta acquisita questa accezione il termine vive vegeto e prolifera, tanto che poi secoli dopo nell'italiano delle origini, quindi parliamo di parecchi secoli dopo, troviamo anche dei termini felicitatore, felicitatrice, felicitante, che rimandano tutti a qualcuno o a qualcosa che è in grado di procurare felicità. E allora, per provocazione, mi chiedo, il fatto che queste parole oggi non siano più utilizzate è da intendersi come esistenza di minori ragioni di felicità, visto che c'è un rapporto stretto tra lingua, pensiero, lingua e realtà? Il fatto che non ci siano più i felicitatori o le felicitatrici o non lo so, certo, però Valerio, voglio dire, proprio lui, siccome il suo libro nasce dalla sua infelicità e che ha provato a essere trasformata nel suo opposto grazie alla felicità degli altri, sono stati felicitatori in quel momento, sì, tutti gli altri, no? Sì. Quindi usiamola sta parola, mi piace un sacco, Francesca. Sì, mettiamola in circolazione. Come no, adesso, da oggi in poi lo farò io. Grazie Francesca Dragotto, ciao. Vi ricordo tutopoli.com per leggere le cose che Francesca ha raccontato in modo molto più ampio, perché è sempre un estratto quello che ascoltiamo. Non ti piace felicitatore? Il facilitatore della felicità. Un gioco di parole che dovrebbe venire. Allora, ti leggo un po' di sms, di messaggi su Facebook, Valerio. Allora, per esempio, Antonella scrive: felicità è ridere con le compagne di scuola dopo 30 anni e delle stesse cose allo stesso modo. Sono rimaste giovani come allora. Tiziana, che per la prima volta ha fatto un lavoro da elettricista, dice: ho cambiato la spina del microonde, l'ho provata e funziona. Attimo di felicità. Anche io sono riuscito ad aggiustare una cosa in bagno stupidissima, però mi sentivo come l'inventore, non so, del cacciavite. Ecco, una mia amica per esempio ha chiamato l'idraulico perché non andava allo scaldabagno, era spento. Ecco, quindi c'è sempre invece, cioè bisogna sempre provarci, no? Vabbè. Allora, e volevo farvi ascoltare sempre un momento da momenti di trascurabile felicità di Francesco Piccolo, e questo riguarda gli acquisti. Attenzione bene. Mi fa sorridere il cartello che c'è sulla porta d'ingresso dei supermercati o nei negozi. Dice: si avvisa l'aspettabile clientela che i prodotti sono protetti da un sistema di allarme. Ci chiamano spettabile e intanto ci dicono: siete dei ladri, ma state attenti che vi becchiamo. Mi fa molto ridere questa cosa, è vero, cioè, la finta gentilezza. Esatto, proprio fintissima. Stefania: sono felice quando acquisto qualcosa con lo sconto, e molto. Però è bello quando non te lo aspetti lo sconto, sì. Quello è. Felicità è quando chiudo un contratto, così la nostra ditta può guardare il futuro con meno patema. E con più felicità. Sono andato a pagare l'IMU e ho scoperto che non avevo il libretto degli assegni. Però devi pagarlo lo stesso entro domani. L'altro giorno, scendendo dalla montagna, all'improvviso mi attraversa un cervo, un battito di cuore, e mi metto a ridere. Mi ha cambiato la giornata. Ecco, perché poi questi momenti ti cambiano davvero la giornata. Sì, pochi secondi che però poi durano ore nel ricordo, no? Cioè, ce n'è uno in particolare che ti ha acceso e illuminato per un'intera giornata? Una cosa piccola che ti ricordi ancora adesso e bene? Ma per esempio Marco Elettrico era felice ascoltando delle canzoni nel questionario che mi ha dato. Allora gli ho detto: fammi un CD con queste tue canzoni, così posso essere anch'io felice ogni volta. E mi ha fatto la playlist delle sue felicità, e quindi ogni volta metto play, posso. Ecco, tra l'altro tu prima, Francesca, parlava di sinestesie, no? Per cui gli aggettivi associati a qualcosa di molto diverso. E parlavi di una tua amica che ha detto. Sì, una ragazza sul sito mi ha scritto: ho ascoltato una canzone che aveva un buonissimo odore. Allora gli ho scritto, no? Gli ho detto: ma le canzoni di solito sono belle e brutte, ma non sono profumate. E lei mi ha risposto: l'odore è quello della persona che me l'ha fatta ascoltare quel pomeriggio. Quindi lei associa ogni volta una. C'è questa associazione. Sì, è uno due. L'anno scorso ho acquistato una bougainvillea, ha superato l'inverno e adesso mi regala i suoi fiori. Al mattino, quando mi sveglio, esco sempre a guardarla ed è un momento di felicità. Ecco, vedi cosa succede. Elena Guerrini, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno da in mezzo al mare a tutti voi. Ecco. Ah, tu sei in mezzo al mare, ovviamente. Ecco. Ma dentro proprio. Allora, senti, Elena, io ti faccio ascoltare un momento di momenti di trascurabile felicità di Francesco Piccolo, l'undicesimo momento lo chiamiamo così, perché riguarda il libro che hai scritto tu. Senti bene, Elena. Mi rende felice incontrare qualcuno che ha ripreso in poco tempo tutti i chili persi con una dieta faticosissima che io per qualche giorno sono stato molto tentato di fare e poi, come al solito, non ho fatto. Elena, perché a un certo punto credo che tu abbia un po' questa cosa dentro di te, no? Quando vedi qualcuno che ci ha provato e poi ha ripreso i chili persi e tu dici: meno male, o almeno una delle tante diete che non ho fatto. Ma sì, assolutamente. Allora, Elena Guerrini ha scritto: bella tutta, i miei grassi giorni felici. Perché dovete pensare che lei era magrissima, piccolissima, addirittura settimina, se non mi sbaglio, e quindi in qualche modo non è mie zie le dicevano mangia, mangia che diventi grande, tu scrivi nel libro sarebbe bastato mi dicessero che sarei diventata grassa, così avrei evitato di mangiare così tanto. E allora tu cosa hai fatto? Hai reso il tuo essere, diciamo, oversize, l'hai reso un momento di felicità. Ma sì, perché credo che se ci apprezzassimo come siamo, senza stare ogni estate a fare diete per essere qualcosa che ci viene proposto. Posso andare avanti, puoi andare avanti tu se vuoi. La doppio. Era al mare e quindi sono andato. No, lei perché ha provato, non mi ricordo quante, ma decine e decine e decine di diete. La cosa molto, il libro è molto divertente. E lei dice: è bello perché perdevo, e poi però mi dice anche perdevo solo acqua. In realtà non perdevo niente e riacquistavo di più di prima quando riacquistavo. Per cui alla fine lei si è stufata, insomma, di cercare sì, un'immagine che non c'è e vuole essere se stessa, fondamentalmente. Ecco, credo che un segreto sia proprio quello di trasformare qualcosa di infelice in realtà in qualcosa di felice, cioè apprezzarsi, lei dice, per quello che si è. Penso che questa sia una piccola ricetta, non lo so. Sì, ho di usarlo, sì, di vederlo da un altro punto di vista, no? Tu scrivi anche canzoni e canti. Sì. E perché? Tu dici perché? Ma scusa, non puoi fare solo una cosa. No, non è questo, è meglio fare tante cose. Ma cosa ti dà? Cosa canti? Cosa ti piace fare? In realtà io ho cominciato cantando, poi per caso ho esordito prima come autore. Però anche in quel caso lì scrivo delle canzoni che sono sempre delle narrazioni, delle storie, dei racconti. Ho fatto un disco che si intitola I miei migliori amici immaginari, sì. dedicate a 10 persone che non esistono ma che vedo solo io. No? Cioè tipo il lottatore mascherato con gli occhiali, che questo lottatore che non ha muscoli ma riesce a battere tutti con la sua miopia, no? Mostrando proprio la sua debolezza. Quindi se tu mostri la tua debolezza hai dichiarato bandiera bianca, se uno ti tira un pugno sbaglia lui. Ecco, non è sempre così, perché... Dipende dagli ambiti. Mi ricordo di un'attrice, non attrice, che facendo veramente pena sul palcoscenico si scusò dicendo: ma io non sono un'attrice, la mia domanda era raro perché devo venirti a vedere. Ecco, per cui vabbè, è vero che le debolezze devono essere trasformate, dipende anche un pochino dall'ambito. Io ti chiedevo questo perché tu hai anche una piccola canzone che puoi cantarci, tratta dal libro, ma la ascoltiamo dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Mi rende felice allattare il mio bambino e vederlo addormentare fra le mie braccia. Oppure a terra l'aereo su Buenos Aires di notte e vedo milioni di luci sotto che posso bermi con gli occhi. Che meraviglia. Ecco, questi sono veramente momenti di grande e piccola felicità. Allora, Valerio, è pronto, come si intitola questo? L'attimo in cui siamo la. Perché è vero, quando fai la, vuol dire che è tutto sempre a posto, vinci sempre, che meraviglia. Anche quando non sai cosa scrivere nei testi, funziona. Premio come miglior testo, la. Comunque, vabbè, poi ti faccio cantare, scusami, però Mariella Nava, in una canzone si chiama Così è la vita, io trovo un testo molto bello, e lei a un certo punto, il momento di felicità di Così è la vita, lo fa arrivare proprio cantando la, quindi io sono assolutamente d'accordo con te e non siamo e con Mariella, i soli, esatto. Eccoci qua, Valerio. Sempre un giorno, se farà buio presto, ricorderò tutto questo e lo vivrò almeno 2 o 3 volte, fino a viverlo ancora, per sempre ancora. Ritroverò lo stesso cielo che ci vide insieme e smise di piovere. ritroverò lo stesso cielo che ci vive insieme e smise di piovere. C'è un momento in cui la famiglia è felice. A volte si tratta di anni, a volte di un mese, di quel grandioso mese, di quel grandioso anno. Tutta la famiglia era spensierata. Al mattino si usciva per andare chi a scuola, chi al lavoro, si rientrava al pomeriggio, all'ora dei compiti, poi c'era l'ora dei giochi o l'ora del nuoto. Gli amici dei genitori erano volti sorridenti, erano cene fuori o scampagnate nel fine settimana, i capelli al vento, le risate con le lacrime agli occhi, le candeline sulle torte, i botti di Capodanno e le vacanze di quel grandioso anno della felicità. Era quel grandioso anno della felicità e noi non lo sapevamo. Ecco, è vero che viene un po' di tristezza quando ti accorgi di un momento di felicità che è passato e non ti sei accorto di averlo vissuto. Io non riesco a riviverli invece. Nella canzone tu dici e rivivrò una volta, due sì. o tre. Ecco, io no, quando sono arrivati, basta. Poi anche ricordandomeli non mi rendono così felice. Ne cerco dei nuovi. Ah, okay. Ecco, no, perché non vivo mai nel passato, sempre un po' proiettato nel futuro. Enrico Groppali, buona domenica. Ciao buona Enrico. Buona domenica a voi, ciao, come stai? Bene, qual è stato il tuo momento di felicità? Proprio quella piccola felicità che ti ha reso felice, magari bere il caffè al mattino, non lo so, cos'è che ti rende particolarmente felice? Beh, mi rende particolarmente felice, per dirti una banalità, il sole, il cielo azzurro e il fatto che fondamentalmente non ci siano telefoni che squillano, non ci siano dei richiami imperiosi per delle sciocchezze. E alla mattina quando ti svegli tu sei tutt'uno con l'universo, dovunque ti trovi. Oh, che meraviglia. Enrico, allora, quando ti abbiamo chiamato per dirti, avremmo parlato di felicità, che cosa ti è scattato? Beh, mi sono scattati intanto due titoli meravigliosi a livello di letteratura. Sì. Felicità di Nina Berberova, che è un bellissimo libro, dove però la felicità si identifica con il passato, essendo la protagonista e la scrittrice un'esule russa a Parigi negli anni in cui, dopo la grande rivoluzione, tutti gli emigrati non potevano tornare in patria, salvo le gravissime conseguenze che ci si poteva ragionevolmente aspettare. E dall'altra la bellissima raccolta di racconti intitolata appunto Felicità, di una scrittrice come Catherine Mansfield, che colloca la sua definizione della felicità nella prima novella, nel primo racconto che si chiama Preludio, in cui la felicità è lo sguardo stupito dell'infanzia, che per la prima volta si proietta sul mondo e prende coscienza del proprio essere. Però poi, per dirvi delle cose, diciamo, meno letterarie, ma più esplicite proprio sul piano della comunicazione, non dico la canzoncina di Albano e Romina, ecco, no, ma due bellissime canzoni, quella di Lucio Dalla che si intitola, sì, Felicità, che dice: su quale treno della notte viaggerai mai, felicità, e quella di una magnifica canzone di Judy Garland che si intitola Love is just a bunch of cherries, cioè l'amore è soltanto un mazzo di ciliegie, ma poi dice happiness is just a bunch of cherries. E quindi la felicità è proprio, si raggiunge semplicemente contemplando un grappolo di ciliegie, che trovo magnifico. Grazie, sono... dimmi, no scusami, poi c'è ci sono tempo oppure no? Abbiamo un minutino. In un minutino, allora vai. C'è un bellissimo film, Le Bonheur, la felicità, da noi Il verde prato dell'amore, un film del 65 di Agnès Varda, l'autrice di Senza tetto né legge, in cui c'è una famigliola, padre, madre e figlio, la madre muore e il padre la sostituisce subito con un'altra donna. La felicità e l'incoscienza in questo film, molto amaro e particolarmente invece crudo nel rappresentare l'intercambiabilità degli esseri umani, anche questa è una forma egoistica della felicità. Enrico, la mia ogni volta che t'ascolto, onestamente, è per regalarci quello che ci regali ogni volta, che fa venire voglia di guardare, di assistere a un film, leggere un libro, e questo, insomma, è veramente un piacere. Sono felice a voi che continuate a credere in me, mi offrite questa alternativa di dialogare con voi e con i nostri ascoltatori. Grazie. Quindi, Enrico, arrivederci, sei il nostro sole della domenica, eccolo. Grazie, qua. Ciao caro, buona domenica. È vero, perché a parte che ti senti, io ignorantissimo, perché va a pesca una biblioteca. Sì, una biblioteca vera, e ovviamente insomma è bello perché scopri qualcosa che proprio non sapevi esistesse. Tra l'altro la canzone di Dalla che citava prima Enrico Groppali avrebbe avrei voluto fosse quella d'inizio della puntata di oggi, però poi, insomma, poi ho fatto un'altra scelta, anche perché per me il bossa nova, visto che ho scelto un pezzo bossa novato, il bossa nova è proprio questa felicità però un po' malinconica, che mi piace un po' il mio stile. Allora, Alessandra Tedesco, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno Alessandra. Ma che bella puntata oggi, veramente mi state riempiendo il cuore. Lo dici solo perché c'è qui Valerio Millefoglie, che so tra che l'altro il libro è molto bello. Grazie. Io l'ho letto il libro, è molto bello, poi state facendo sentire Francesco Piccolo, che io adoro, quindi insomma è la mia giornata. Ne è una valanga, sai, di frasi di Francesco Piccolo che vorrei fare ascoltare adesso, tra poco ne scelgo un'altra. Io volevo, Alessandra, prima di parlare del premio Strega, parleremo di questo tra poco, volevo fare una domanda a Valerio, che è questa. Mi sono accorto che questi momenti di piccola felicità mi sembra arrivino più spesso da donne piuttosto che da uomini. È vero o è falso? Forse perché sono più abituate a raccontarsi, no? Non lo so. O a cercarle. Anche i libri che ha citato prima Enrico, no? Erano due autrici. Sì. Sì. Beh, invece no, sono riuscito a trovare anche tanti uomini che sono raccontati nel libro, quindi... Forse gli uomini bisogna imboccarli un po' di più, vero? Cioè, le donne forse lo fanno un po' più istintivamente, diciamo. Alessandra, allora, parliamo del premio Strega perché c'è una bella iniziativa. Sì, c'è una bella iniziativa, diciamo che possiamo fare la felicità di ben 5 ascoltatori di Radio 24. Sì. Allora, pochi giorni fa c'è stata la cinquina del premio Strega, sono stati scelti 5 libri finalisti. Il 5 luglio a Roma, nel Nirseo di Villa Giulia, c'è questa serata di gala dove vanno, insomma, il gota degli scrittori, ma anche dei politici, degli intellettuali, e si premia il vincitore finale dello Strega. 5 ascoltatori di Radio 24 potranno venire con me e con altre persone di Radio 24 a seguire questa serata, che è una serata sia mondana ma anche culturale, di letteratura. Che cosa devono fare? Devono andare sul sito www.radio24.it, scegliere quale sarebbe stata per loro la cinquina ideale, indipendentemente da quella che è stata già fatta, scegliere il vincitore ideale e scrivere una motivazione. Le 5 motivazioni che ci piaceranno di più al nostro insindacabile giudizio, naturalmente, queste persone verranno con noi a seguire la serata del premio Strega, e direi che è un attimo di grande felicità per i lettori forti che sono appassionati di letteratura. È anche la prima volta che si fa una cosa del genere, per cui insomma è una bella possibilità. Anche essere i primi rende felice per una volta, no? Non sei primo per secondo Agassi, no? C'è questo bellissimo libro Open, che la sua autobiografia dice, quando in realtà la felicità della vittoria non è grande come invece la malinconia della sconfitta, cioè perché dura davvero poco, quindi non bisognerebbe vincere. Non bisognerebbe vincere. No, è vero. C'era un libro molto bello di uno scrittore norvegese, credo, che si chiamava, oddio, in questo momento non me lo ricordo, era Dieter Borea, che parlava della bellezza di essere secondi nella vita. Anche quello può essere un attimo di felicità, essere secondi. Sì, io sinceramente... Lui non è d'accordo. No, perché preferisco il terzo al secondo. Ah, ok. Assolutamente, sì, perché il secondo posto è proprio a un soffio dalla vittoria. Il terzo invece te lo metti in tasca, dici, sono salito sul podio, e invece il secondo è quella cosa che ti fa anche un po' nervosi. Grazie Alessandra, ciao, buona domenica. Ciao, ci sentiamo presto, e mi raccomando, scriveteci. Come no, certo, facciamolo, e andate sul nostro sito, poi cercate appunto la sezione dedicata al premio Strega. Intanto volevo dirvi anche questo, che c'è la 6ª edizione a Viterbo per Caffeina Cultura, un eccitante culturale contro la crisi. Ve lo dico perché questa anno proprio, Caffeina Cultura Viterbo diventa una tappa ufficiale del premio Strega, con 2 appuntamenti in collaborazione con la Fondazione Bellonci. Il 3 luglio incontro con i 5 finalisti del premio, di cui abbiamo appena parlato, e il 6 luglio il primo incontro con il vincitore dell'edizione 2012. Per tutte le informazioni, caffeinacultura.it. E prima di chiudere la puntata, vi faccio ascoltare un altro momento, visto che l'ha citato Alessandra, dei momenti di trascurabile felicità. Non sono mai stato uno che guarda le previsioni del tempo. Non so cosa questo significhi, ma è così. C'è un'altra parte di mondo che guarda le previsioni del tempo. Sanno sempre che tempo fa perché hanno visto le previsioni e il tempo reale lo confrontano sempre con quello dettato dalle previsioni. Dicono, alla televisione lo avevano detto e spesso aggiungono, ormai non sbagliano più, non è come prima, ora ci sono i satelliti. Non ho mai pensato di guardare le previsioni del tempo e quando sento la sigletta che le introduce cambio canale. Non per avversione, ma perché non mi interessa. Se c'è il sole, sono contento. Se piove, piove. Oh, scusa, io non capisco mai perché uno deve andare via. Ah, no, mi hanno detto che è brutto, ma cosa te ne frega? Vai via e basta. Se è vero, se piove, piove, se c'è il sole. Perché farsi bloccarsi la felicità prima? Si fa sempre spesso, prevenire. No. Si previene la felicità sì. In qualche modo. Che cosa brutta. La si vuol pianificare, no? Ed è impossibile, ovviamente. Sì. Cosa ti aspetti da questo libro, Valerio? Ma in realtà io sto continuando a catalogare gli attimi felici sul sito, quindi quello che mi aspetto sta già succedendo, no? Che continuano a mandarmeli. Il sito è www.attimofelice.it. Poi per presentare il libro ho fatto queste sedute di psicanalisi pubblica con in ogni città avevo uno psicoterapeuta diverso che mi analizzava davanti al pubblico, no? È stato bello perché alcune volte proprio spariva la gente, per me cominciavo ad aprirmi quando sì. Dopo un'ora ero davvero frastornato. Eri nel tuo mondo, sì, proprio, sì. Certo. E ha funzionato su di te dal punto di vista psicanalitico, voglio dire? Assolutamente no. E c'è stata una sorta di così di specchio verso chi ti ascoltava, cioè magari qualcuno invece si leggeva nelle cose che raccontavi, penso di sì. Ma allora alcune presentazioni a un certo punto sono diventate davvero delle terapie di gruppo, no? Sì. La gente ha cominciato a raccontarsi e poi sì, mi arrivano tante mail molto belle anche da persone che hanno purtroppo perso anche loro. Qualcuno hanno letto il libro subito dopo e in realtà invece di rattristarsi si sono tirati su. Quindi la terapia funziona, vivere attraverso, cioè essere felici attraverso, cominciando dalla felicità degli altri. Diciamo cominciando da lì, perché sì. Poi a nostra volta quando saremo felici saremo anche noi, ne daremo noi agli altri, per cui funziona in questo modo. E grazie Valerio Millefoglie, vi ricordo l'attimo in cui siamo felici. Dal 22 giugno scoprite al cinema la commedia gastronomica dell'anno, Chef. Vi presenta Il gastronauta. Qual è il tuo attimo di felicità? Magari l'hai già avuto oggi, Davide, buongiorno. Beh, però non mettiamola sul gastronomico. No, l'attimo di felicità in generale, no, assolutamente, può essere. Ma non so. Sai, un attimo di felicità in generale è quando si hanno dei figli, probabilmente, e vederli crescere bene. Forse questo è uno degli attimi di felicità più importanti. Oppure guardare un bel paesaggio, ecco, sì. Un bel paesaggio che molte volte concilia l'anima, quindi... Che sono le cose che piacciono di più a Valerio. Io sai, mi è venuta in mente una cosa, Davide, adesso tu raccontando, cioè parlando di cibo, e invece ho scoperto un mio momento di felicità e te lo regalo, Valerio. È stato questo, io ho dovuto affittare per lavoro un appartamento sul lago e ho un giardino, per la prima volta nella mia vita non ho mai avuto, eccetera. Ho scoperto di avere la salvia. E per la prima volta quindi ho fatto il burro e salvia con la salvia del mio giardino ed è una roba che mi ha reso felicissimo. Per la prima volta sono veramente a chilometro zero, non per il burro ma almeno per la salvia, Davide. Quindi ci sono, guarda, dei momenti, dimmi. Tu mi tiri la volata, nel senso che io da quando ho un orto nella mia terrazza, nel mio terrazzino, e che vedo crescere la salvia, il rosmarino e soprattutto una cosa, un carrubo. Io ho la passione del carrubo e anni fa me l'hanno regalati a Modica, appunto una zona della zona abbastanza famosa per i carrubi, e stava morendo. È stato fatto un cambiamento di terra, di altro, oggi è alto 2 metri e io ogni volta che rientro e vedo questo carrubo, così anche se ho qualche pensiero, sicuramente vedere che è ritornato a vivere e che così sono affezionato, veramente è un momento importante anche quello, come appunto cogliere certe cose nel mio piccolo orticello. E qualcuno mi dice, ma guarda che siamo a Milano, sicuramente e super inquinato, non mi importa niente, non mi importa niente perché tanto ormai quasi tutto è inquinato, ma a parte questo, cioè vedere crescere delle cose, secondo me è veramente importante. Ecco, infatti, poi anche scoprire di averle e non saperlo, no? Come è successo a me, ti dà veramente felicità. Davide, c'è qualche cosa che ti ha reso particolarmente felice invece in quello che riguarda il tuo essere gastronauta? Sì, guarda, la cosa che mi rende sempre felice quando scopro un piccolo produttore in giro per l'Italia, magari piccolissimo, sconosciuto, che riesco a dargli un po' di vita, nel sì. senso... che scrivendone o parlando, certo. E così la sua produzione può essere acquistata o può crescere. E sono tanti questi, diciamo, questi personaggi, e devo dire che sono molto riconoscenti, nel senso che quando li incontri e ti salutano, capisci già da quel saluto che significa molto, cioè significa così un fatto di gratitudine. Ma io non tanto per questo fatto di gratitudine, ma soprattutto perché appunto ho dato così. Dare visibilità a qualcuno che altrimenti non ne avrebbe, e che davvero se la merita, perché c'è molto lavoro alle spalle, per cui c'è molta umanità su questi personaggi, veramente una grandissima umanità, e proprio questo che mi rende felice, proprio per aver dato a dei personaggi generosi così un momento, forse un aiuto, che poi magari alcuni di questi sono diventati anche abbastanza importanti dal punto di vista commerciale o d'altro. Altri un po' meno, però non mi importa, cioè, l'importante è di avergli dato per un momento certo. quel pizzico di visibilità che gli ha potuto far continuare l'attività, e questo è molto importante. Mi piacerebbe nelle zone terremotate, cioè poter fare qualcosa. Ora tutti diciamo sono all'opera per dare una mano. Io credo che il momento difficile sarà tra un mese, quando un po' ci sarà dimenticati, e quindi sarà quello il momento forse veramente di poter fare un giro e poter vedere come si possono aiutare queste persone. Toccherà a noi dare visibilità, appunto, ancora, sì, certo, puntare certo. ancora i riflettori. Grazie Davide Paolini, buon viaggio visto che sei in treno. Ciao, buona domenica, ciao. Tra poco giochiamo 800 24 00 24, fino a 1000 euro per voi da spendere in libri, cartacei o digitali. Un mistero in 24 minuti. Siamo pronti a partire con il nostro mistero, e stanno arrivando ancora messaggi sulla felicità, cercherò di leggerli comunque in questi 24 minuti. 800 24 00 24 il numero per prenotarvi, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri o digitali o elettronici, no, la stessa cosa, o digitali o cartacei, ecco cosa devo dire. La risposta può essere o una delle notizie della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto e popolare. E il primo indizio di questa settimana arriva dagli alunni del Sole. Come imparata fa, come imparata fa, si dopo tanto tempo te si scordate me, e quando mi guardavo e pure te guardavo, con l'occhio mi studiavo, tutte mosse te facevo. Si innamora di me, ma sentimi, chi te fa fa, e torna la tua volta in braccio a chi là. Si innamora di me, ma sentimi, non ci pensa, e torna la tua volta a duchillula. Che t'ha gerita fa, che t'ha gerita fa, ruamma la tua volta, onore può bastare, per te sentire parlare, per te dicere capo, non mi aspettava niente a te. E questo era il primo indizio. A canzoncella si intitola Gli alunni del sole, l'avevano interpretata molti anni or sono. Francesca da Verona, buona domenica, ciao. Ciao, ciao Stefano, ciao, buona Francesca. Domenica a te. Allora, visto che si chiama La canzoncella, giusto? Sì, così A canzoncella, titolo, esatto sì. A canzoncella, io ho pensato al sindaco di Sanremo, che ha dichiarato che il festival potrebbe essere trasferito dall'Ariston a una sede, un'altra sede, il Mercato dei Fiori di Valle Armea, e per una polemica che c'è stata col proprietario dell'Ariston, del teatro, per la faccenda dell'IMU. Che ritiene sia troppo alta. Francesca, grazie, brava anche per l'associazione, ti faccio i miei complimenti, anche se fino al 24esimo minuto non sapremo se i 1000 euro sono tuoi. Ciao, grazie. Buona giornata. E a proposito di pagamenti, vi leggo ancora qualche messaggio di Felicità. Felicità è riuscire a pagare le bollette anche questo mese, in effetti. Capita a volte di sentirsi per un attimo felici. Non fatevi cogliere dal panico, è questione di un attimo, appunto, e passa. Silvana da Rimini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, piacere sentirvi. Mio, Silvana, cosa vogliamo fare? Siamo ancora a 1000 euro. Ma io avevo pensato un'altra cosa, magari è molto banale, però visto che si chiamava la canzoncella, io ho pensato a Berlusconi, cattivona, cattivona, cattivona, la canzone che Maristel Polanco ha fatto. Ha fatto con la voce sua, sì, col campionamento, insomma. Potrebbero essere 1000 euro per te, Silvana, grazie, buona domenica, ciao. Anche a voi, grazie mille per la compagnia. Mi piace, ultimamente le associazioni sono sempre più interessanti. Leo da Bari, buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao Stefano. Allora, che? Siamo ancora a 1000 euro, Leo. Che cosa vuoi fare? No, voglio tentare. Sì, allora diamo la tua risposta. Allora, per me, diciamo, quando riguarda, diciamo, la questione attuale del lavoro, il decreto, diciamo, del governo. Il decreto sviluppo, di quello stai parlando? Sì, del lavoro, sì. Grazie Leo, buona domenica. Ciao, siamo ancora a 1000 euro, un solo indizio scoperto, gli aggiornamenti sul traffico, andiamo avanti, ma prima il numero per prenotarvi, 800 24 00 24. Un mistero in 24 minuti. Marco da Piacenza, buona domenica. Buona domenica a tutti, un saluto a tutti anche da parte di Dinetta, che è il mio cagnolino, saluto qua di fianco. Eccola, allora, che cosa di lei abbiamo parlato la settimana scorsa, fra l'altro, beh, di lei in generale, insomma, degli amici a quattro zampe. Allora, Marco, cosa vogliamo fare? Abbiamo ancora solo un indizio scoperto, siamo ancora a 1000 euro però. Io proverei a ascoltare un altro indizio. Eccoci qua, andiamo a 500 euro. In una polvere di stelle vedo te, dolce sogno del mio cuore, astro d'or fulgido sei tu, bambina dai begli occhi blu, tutta adorna sei di riflessi e di splendore che fanno palpitare il cuore con tanto ardor, sì, con tanto ardor. Allora Marco, avrai riconosciuto la canzone, immagino, che è Stardust, ma in italiano è Polvere di Stelle, e la versione era quella di Natalino Otto. Guarda, io credo che oggi sia la mia giornata, perché il mio cane, l'altro, il maschio, si chiama Otto. Comunque io do una risposta avventurosa. Sì. Credo che sia il maestro Apicella che alla Zanzara ha dichiarato di aver subito delle ingiustizie in quanto musicista di Berlusconi. Certo, grazie Marco, buona giornata a te e ai tuoi buona giornata a tutti amici a quattro zampe. E Antonio da Bari, buongiorno. Buongiorno. Aia, la radio, spegnila, grazie. Devi sapere che poi ho le cuffie molto alte. Pronto. Mi si è spaccato un timpano. Antonio, ci sono. Abbiamo capito che ci sei, hanno capito tutti gli ascoltatori. Purtroppo sono in strada. Allora, che cosa vuoi fare? Abbiamo scoperto già due indizi fino a questo momento. No, siamo. Provare, ma il secondo mi ha messo un po' fuori strada. Ah. Comunque, voglio provare, comunque, tentare per tentare. Gli alunni del sole inizialmente mi avevano fatto pensare alla notizia di quei bambini bocciati in prima elementare. Erano 5 bambini. Ah certo, gli alunni. Sì, gli alunni mi avevano fatto certo. pensare. E la notizia ci sta, e come? E la seconda magari un po' meno, però. Grazie Antonio. Io mi sono perso. Mi spiace, grazie, ciao, ciao, che rabbia. Alessandro, dalla provincia di Bologna. Buongiorno. Ciao Alessandro. Buongiorno a tutti. Allora, siamo a 500 euro. Io vado avanti. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Il primo indizio. Sì, quindi senza ascoltare altri indizi. Mi hanno fatto venire in mente gli esami di maturità sotto le tende nella zona terremotata, visto che noi abitiamo a Crevalcore, siamo in zona terremotata, e gli esami di maturità li fanno sotto le tende. E certo. Grazie Alessandro, buona giornata. Grazie. Maurizio della provincia di Monza e Brianza. Pronto? Maurizio, ciao. Sì, salve. Sei in bagno? Dove sei? Rientro da un giro con la bicicletta. Ah, ecco, perché sento tipo l'androne della casa, potrebbe essere una cosa del genere. Io aspetto che torno. Che bella, che voglia che avete la domenica mattina. Io vengo in bicicletta in radio, ma è poca roba, insomma, rispetto a chi fa. Io sono stato a Canzo, sul lago di Seghino. Che meraviglia. Nella felicità. Sì. Io non ci credo al paradiso, ma. Quei momenti sono di grande felicità. Mettiamo il caso che ci sia. Sì. Secondo me assomiglia lì alle Niadine, quelle robe lì. Se poi c'è veramente, io l'ho già visto. Allora, secondo me erano la canzoncina anti-evasione, insomma, pro-scontrino, però ho l'impressione che l'abbiano già detto. No, non l'hanno detta, no. È una risposta. Grazie Maurizio. Salve. Buona domenica, ciao. 800 24 00 24, indicando come momenti di piccola, grande felicità. Volevo citare anche Viviana, un'ascoltatrice, con una storia. Dice... È demonizzante essere infelici, io lo sono, no, non è che sia demonizzante, perché c'è un motivo poi, e lei aggiunge, vivo insieme alla sclerosi multipla, ma quando riesco a fare due passi sono felice, e poi immaginiamo che sia un momento di grande felicità. I vostri messaggi poi li passerò tutti a Valerio Millefoglie, perché lui raccoglierà poi, come sta facendo anche sul suo sito. E Alberta da Roma. Buongiorno. Ciao Alberta, buongiorno. Buongiorno, io vorrei ascoltare un terzo indizio. Eccolo qui che arriva e scendiamo a 300 euro. Generale dietro la collina. Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Alberta, l'avevi riconosciuto Francesco De Gregori, esatto. Di Generale. Io avrei pensato alla gaffa della Premier Dama su Twitter. Grazie Alberta, buona domenica. Anche a ciao, voi. Ciao, grazie. Claudio da Verona. Pronto? Ciao Claudio. Buongiorno. Ciao. Allora, io secondo il terzo indizio non mi hanno suggerito nulla. Allora, aspetta un attimo. Primo... Sì, allora aspetta, però ascoltiamo i tre indizi che abbiamo scoperto, certo, fino a questo momento. Eccoli qua. È intanto da contenta con questa canzoncella. In una polvere di stelle. Generale dietro la collina. Ci sta la notte, crucca e assassina. A canzoncella, gli alunni del sole, polvere di stelle, Natalino Otto e generale De Gregori, Claudio. Allora, il suggerimento per me è arrivato dalla prima canzoncella e mi ha fatto pensare a Nina Zilli, che si è offerta di cantare a Casa Azzurri per risollevare il morale degli atleti. Grazie Claudio, buona domenica. A lei, grazie. Siamo a 300 euro ancora. Francesco da Pescara. Ciao. Ciao Francesco. Li mettiamo insieme questi tre indizi, diamo una risposta. Veramente sterzo indizio mi ha spiazzato, perché io avevo pensato al fatto che la settimana scorsa, se non ricordo male, è morto l'ultimo dei Platters. Sì. Avevo pensato a questa notizia qui, però adesso con generale non lo so, non sono più sicuro. Grazie Francesco, mi dispiace. Grazie. Ciao, infatti non è la risposta giusta. Rita, la provincia di Reggio Emilia, credo che sia sullo scadere del tempo. Rita, io volevo dire i 90 anni di Margherita Hack. Grazie Rita, no, mi dispiace, ciao. Niente, non ce l'abbiamo fatta, vi dico subito. È arrivato Scipione, l'anticiclone del Sahara. Allora, perché? Beh, a luni del sole, e di sole si parla. Natalino Otto cantava perché in otto città d'Italia si prevede un caldo torrido che arriva ai 40 gradi. Generale perché Scipione era appunto un generale. E poi gli altri indizi l'avrebbero portato sicuramente all'Africa e al vento caldo. L'ultimo indizio sarebbe stato il vento caldo dell'estate e quindi l'avreste scoperto. Avreste guadagnato solo 100 euro, ma almeno qualcosa. Sì, era comunque questa la risposta. Ci proviamo la settimana prossima sicuramente. E io vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima per Riposo del Guerriero. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, grazie a Diego Baldoin e Alessandra De Luca che hanno letto alcuni brani tratti da momenti di trascurabile felicità, e grazie a Camillo Lauricella in regia, e ovviamente a voi. Ci sentiamo domenica prossima puntuali alle 10. Buona settimana da Stefano Gallarini. Mi rendono felice tutte le persone che non sono belle o che sono brutte. Poi quando le conosci diventano più belle, sempre.